Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, quindi alle 21:01, oggi è giovedì. Che giovedì è oggi, nonnetto? Come nonnetto? Giovedì 23. 23 agosto 2012. Buonasera Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. E buonasera appunto a tutti i nostri fedelissimi ascoltatori e ascoltatrici che saranno all'ascolto questa sera per rendere, come dire, omaggio al Friuli ancora una volta. Ormai siamo di casa noi con il Friuli. Se abbiamo un collegamento continuo. Continuo. E beh, ed è un meraviglioso collegamento, oltre che molto bello. Tra l'altro molto più bello di te, sai Maurizio. Direi bene. Assolutamente. Abbiamo una grande artista anche questa sera, ma ne parliamo tra qualche istante. Come di consueto, consentimi, carissima, di dare i nostri dati, quelli tecnici, tra virgolette. Allora, il nostro numero telefonico con in studio è lo 049 875 6423. Mentre per quanto riguarda gli sms, spero magari di ricevere qualcuno per salutare la nostra cara amata Elsa, dicevo il 346 23 20 0 33. Vi ricordo le nostre frequenze: 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Il nostro sito dove potete ascoltarci in streaming, cioè www.bluradioveneto.it. Nella home page c'è scritto Ascolta la radio, cliccando lì 24 ore su 24 sentite le nostre musiche, le nostre trasmissioni, le nostre rubriche e quant'altro, insomma anche i nostri live. Che vi ricordo, questa sera andrà in onda nella fascia oraria chiamata Blu Radio Sera con Agostino Spolore e con Maurizio Calzavara, ma soprattutto con una grande artista che, come dicevo prima, si chiama Elsa Martin di cognome, ci presenta il suo album che si chiama Verso. Ciao Elsa. Ciao a tutti. Benvenuta. Buonasera. Benvenuta a Blu Radio Veneto. Grazie. Buonasera Elsa e ben ritornata. Sei ritornata, sei venuta un tempo fa, però era solo un ospite occasionale. Sì, a curiosare. Avere una sbirciatina. E quella sera lì ci ha portato questo disco. Maurizio. Esattamente, ci ha portato questo disco. Ma stasera abbiamo anche la reporter, quella giornalista ufficiale del gruppo, Giulia Daici. Buonasera Giulia. Buonasera. E lei il tramite, lei che ha aperto questa strada friulana, vero Giulia? Spero, mi fa piacere. Ci hai dato veramente un sacco di artisti, ci hai proposto, insomma. Però sono, è anche perché gli artisti sono molto validi, no? Certo. E poi abbiamo anche il maestro arrangiatore, dobbiamo sottolinearlo, qui davanti Marco Bianchi. Buonasera Marco. Buonasera a tutti. E poi vi devo già subito salutare perché c'è Serena Finati che vi sta ascoltando, dice ma ciao. Ciao Serena. Vi saluta sia a te Giulia che anche Elsa. Insomma. Allora, poi abbiamo Simone e Paolo. E poi arriva anche Gil fra poco. E fra poco arriva anche Gil a trovarsi, quindi sarà una serata bella piena di amici. Super affollata. E in simpatia, ma soprattutto nella compagnia tua, bella e splendida compagnia con la tua musica. Grazie, sì, io sono contentissima di essere qui stasera. Sì, io sono nella Fossa di Leoni, perché è bello essere nella Fossa di Leoni. Il tuo progetto è un progetto particolare. Una volta, tempo fa, abbiamo ospitato uno che ha fatto un progetto simile, era un maschietto, era Luigi Maniero, un musicista straordinario, un poeta. Come sei partita tu che hai studiato canto jazz e vocalità jazz? Sei arrivata alla musica tradizionale, la musica della tua terra, tra italiano e friulano. Il progetto, dove è nato, dove si è sviluppato, il perché di un progetto così coraggioso, quello non è semplice assolutamente, tu che ami le sonorità jazz, concretizzarli, avvicinarli alla musica popolare. Allora, piccola premessa, la musica jazz parte da una tradizione che è molto forte, certo. Quindi può insegnare tanto sulle tradizioni già lei stessa, no? E la mia curiosità è nata da giovinetta, perché sono sempre stata molto attratta da quello che è il vecchio, le cose vecchie, no? Proprio mi piacciono queste atmosfere un po' retro. Questa ricerca delle radici. Sì, ma anche proprio nella quotidianità, sì, no? Certo. Il vestito che richiama una certa epoca, piuttosto che i vecchi proprio, i loro visi scavati e rugosi, mi attraggono. Quindi c'è qualcosa di innato legato al fatto che nella mia terra, il Friuli, si parla una lingua che è molto bella. Posso interromperti un attimo? Sì. Io te lo faccio subito il regalo perché è una persona che a te sta molto a cuore. Sì. Sai chi ti porta adesso il telefono? Ta-da! Pronto! Ciao Esina! Eccola lì! Cambiamo i saluti. Sì, sì. Allora, un bacio grandissimo. Grazie tesoro. Dove sei? Sei sui monti, mi pare. Sì, l'isolata sulle montagne. Eccola lì. Quindi però da qui ti mando tanto fresco e tanta natura, tante cose belle. Buona, buona trasmissione. Grazie tesoro. Sì? Sì. Bene. Allora buona continuazione di chiacchierata e forse, forse non avete capito, se non avete capito, se abbiamo Erika Boschiero al telefono, la vincitrice di Musicultura con il miglior testo, è venuta a trovarci tempo fa ed è una carissima persona, splendida persona come te, sa come Giulia. E Erika, io so che ti ho strappato qualche istante prima di un tuo concerto. Sì, una cosa un po' improvvisata qui in montagna dove sono. Mi sono presa una settimana di vacanza e nel posto dove sono alloggiata, insomma, che fa anche il ristorante, abbiamo deciso di imbastire un concerto e quindi adesso vi saluto e vado giù a suonare. Certo, meraviglia. Certo. È stata una cosa velocissima, giusto per salutare Elsa, insomma. Che... Grazie, piacerissimo. Certo. Un abbraccio forte. Anche a te, Stella. Ciao Erika, grazie della Agostino, disponibilità. Ciao Agostino, ciao Maurizio, ciao. Ciao Agostino. Erika, ciao. Ciao, grazie, ciao. Una cosa veloce, era grazie, giusto perché... Grazie, mi ha fatto piacerissimo. Ma tu non sai che lei doveva venire qui questa sera, fisicamente, sì. Te l'avevo fatto questa sorpresa. L'hai pensato tutte. A me piace fare questa sorpresa, Giulia mi conosce bene, lo sa. Insomma, io volevo regalartela questa che sera bello. Qui. Ma purtroppo non è stato possibile perché si è preso appunto questo periodo di riposo, di relax dopo tanto stress e non ha potuto venire. Però ho detto magari una telefonatina e poi non poteva perché c'è questo concerto, allora ha posticipato per te. Pensa. Il concerto per darti un saluto. Grazie mille. Vi ho interrotto, chiedo scusa. Sì, sì, ma è un'interruzione che era bella, che era sì. Positiva. Sì, Elsa stava dialogando con me e con gli ascoltatori, così riusciamo a capire dove è nato il progetto, dove si è sviluppato. Tu parlavi delle origini della tua terra. Sì, sì, dicevo appunto che la terra friulana ha questa lingua minoritaria che ha dei suoni molto belli. E se uno l'ascolta non la riconduce nemmeno ad una regione particolare, a meno che appunto non l'abbia già sentita in altre situazioni, perché si differisce un po' dal resto dei dialetti, no? È qualcosa che richiama a terre altre, delle sonorità arcaiche, antiche, no? E anche da un punto di vista compositivo è molto duttile come lingua. Di conseguenza, questa la sua bellezza, accanto a una mia attrazione verso le cose antiche, accanto al fatto che comunque la tradizione fa parte di noi in maniera imprescindibile, hanno fatto sì che 5 anni fa ormai, assieme a Marco, iniziassimo a sgarfare all'interno di questi libroni, no? Di canti popolari della nostra regione, a prendere delle melodie, perché essendo di tradizione orale non è che vi siano arrangiamenti, no? Esistono solo delle melodie cantate, e quindi ci siamo presi cura di queste melodie e sono stati costruiti degli arrangiamenti pensati e sperimentati in modo che rispecchiassero al meglio quello che è il nostro linguaggio musicale. E quindi c'è stata appunto la nascita di questi brani, sia della tradizione riarrangiati, accanto a brani originali che avete scritto voi, che abbiamo scritto noi. Questo perché comunque, per quello che dicevo prima, certe melodie, perché solitamente la composizione da parte nostra parte prima da un punto di vista musicale, richiamavano già loro un testo che era più vicino alla sonorità del friulano rispetto che a quella dell'italiano. È stato difficile comparare, avvicinare anche musicalmente la tradizione all'attualità, adesso praticamente. Ma in realtà c'è il maestro qui davanti, qui potrebbe dire qualcosina. Potrebbe lui. Dire qualcosa, però sì. L'idea di prendere un testo antico e rielaborarlo, rifarlo, riproporlo in chiave del 2000, di adesso praticamente, c'è stato qualche difficoltà, c'è stato qualcosa che ha un po' ballato, che poi siete riusciti a praticamente a fare la quadratura del cielo. Allora, prima dico il mio pensiero, poi dici tu, va bene. Okay. Allora, in realtà non c'è la volontà di scrivere qualcosa che sia attuale. C'è la volontà di riuscire a prendere delle melodie e a tradurle nella maniera migliore, che però esprima il proprio sentire. Ho capito. Che può essere anche un sentire alla vecchia, cioè, no? E quindi non ci sono state difficoltà, ma perché non c'è stata la volontà di seguire tendenza. Ok, ho capito. Io direi di... Dimmi. No, stavo dicendo direi di rompere subito il ghiaccio, di far sentire subito la voce del suo disco. Sì, Marco lo sentiamo dopo allora, perché... Ah, giusto. Perché era tutto apposta, tutto costruito perché parlasse Marco, hai giusto. Capito? Perdonate la mia... Era tutto irruenza. Fatto ad hoc. Chiedo scusa a Marco. Sto scherzando. Marco, scusami. No, figurati. No, sentiamo qualcosa. Ti pago dopo. No, parla pure. No, sentiamo dopo del pezzo. Avete scelto come pezzo d'apertura che cosa? Un brano originale, si chiama Neule Scure. Ed è un inno alla natura. Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21:16, Blue Radio Veneto, Cristina Maurizio, ma soprattutto Elsa Martin. Ti porto già i saluti dal Bari. La Debora ti sta ascoltando in streaming, ovviamente. Perché non è... Ciao Debora. Ecco, e così gli è piaciuta la canzone, dice che è carina la canzone. Grazie mille. Quindi ciao Debora, un bacio, un abbraccio e resta in ascolto, che siamo sempre qui. Maurizio. Ok, parliamo con Marco adesso, visto che è il momento suo. Il discorso del violino, il discorso della musica popolare, la scelta di questo suono decisamente popolare, di questa band che suona popolare. Sì, i brani non sono tutti che richiamano la tradizione. Per esempio questo appena ascoltato potrebbe essere benissimo un prodotto pop. Sì. Però abbiamo voluto dare questo filo conduttore nel disco, quindi musicisti e strumenti per lo più acustici, quindi contrabbasso al posto del basso elettrico, una batteria suonata molto percussivamente con delle spazzole, chitarra acustica, violino appunto che richiama moltissimo la tradizione. Certo, decisamente. E il clarinetto, quindi siamo proprio... Però comunque anche in brani che... potrebbero essere pop. Certo. E poi il bello che quanto suonati così. È verissimo. E poi la voce di Elsa, che è una voce particolare, si inserisce perfettamente, quasi ondeggia, cerca, cavalca i suoni, proprio nel vero senso del termine. Lì c'è anche l'idea dell'uso della voce come strumento musicale in primis. Esatto. Canto jazz, mica per niente, ha imparato, ha studiato musica jazz. Prende quindi il suo spazio, ma certo. Attraverso hai detto una cosa giusta, prende il suo spazio attraverso, e questo è importante, un basilare, un concetto basilare secondo me nel disco, attraverso, cioè attraverso determinate sonorità, attraverso la voce di Elsa entra, penetra in tutte le diverse facce del disco, secondo me. Che bella osservazione. Dopo facciamo parlare anche la nostra recensione, la nostra reporter, official reporter. Che lei ha iniziato dicendo una cosa. Giulia, adesso parla. Tu hai iniziato la recensione dicendo una cosa molto bella, cioè del discorso della tradizione e del linguaggio italiano. Sì, dicevo che secondo me, ma lo diceva anche Elsa, sì, prima, lo diceva anche alle righe, esattamente. Che secondo me non serve per forza essere friulani per apprezzare canzoni in friulano, certo. Perché siamo abituati comunque sempre ad ascoltare canzoni in inglese, in francese, oppure anche in altre lingue, generalmente l'inglese, e spesso e volentieri ci capiamo poco, eppure le cantiamo e ci piacciono. Esattamente. E quindi la bellezza di una canzone prescinde proprio dalla lingua. È ovvio che se uno è friulano riesce a capire meglio i testi, e specialmente quando ci sono dei testi come quelli di Elsa, poetici, molto belli, si ha una visione a 360 gradi della bellezza, no? Di quello che si sta ascoltando. Però non è l'elemento fondamentale, sì, perché l'essere friulano oltre, per apprezzare. Esatto, vuole andare oltre a questo. Infatti. Sì, comunque la mia volontà è proprio quella di riuscire a esportare, no, la bellezza di questa lingua anche al di fuori della regione. Assolutamente. Come hai fatto? Come stai facendo? Come sto cercando di fare, e per fortuna dei consensi ci sono. Proprio oggi la radio svizzera, quella nazionale, sì, ha trasmesso una canzone in friulano, sì. Bene. Per dire che comunque se un prodotto ha un valore intrinseco, adesso non sto dicendo che il nostro prodotto vale in maniera assoluta, però se uno ci crede in quello che fa e cerca di fare le cose al meglio e di essere comunicativo, il messaggio ha delle ottime possibilità di essere, no, veicolato. E quindi il nostro desiderio è proprio quello di riuscire a fare dei concerti e a cercare di esportare appunto la nostra musica al di fuori dei confini. Speriamo. Sì. Beh, qui siamo nel Veneto, qui siamo appunto, al di fuori dei confini. Qua è già? Assolutamente. Sei già fuori. Assolutamente, assolutamente. Ma come mai questa tua voglia, Elsa, di cantare un po' in italiano, un po' in friulano? Ti dico, è la musica che richiama un idioma piuttosto che un altro. Cioè non è che mi impongo la scelta, bene, adesso devo scrivere una canzone in italiano. Nasce qualcosa a livello musicale, una piccola cellula melodica, che dopo richiama un vestito in una lingua piuttosto che un'altra. Sì, però io... Adesso io dico una fesseria, nel senso che ma non potevi tu magari fare un disco in italiano e un disco in dialetto friulano? sì, per dare due immagini diverse, non so, un po' come ha fatto la Patrizia Laquidara, per dirti, insomma, che ha fatto proprio un disco tutto in dialetto vicentino, lei antico esatto, che è venuto tra l'altro anche qui a presentarlo, e fare un altro disco invece di musica italiana. C'è chi ti ha già paragonato a Elisa, mi ha scritto adesso, che bella voce che ha, sembra Elisa. Con una I in meno. ma questa è Elisa, chissà se riuscirò a incontrarla Elisa. Prima o poi magari ci sta ascoltando. A fare un duetto, dai Elisa. Allora, no, la cosa è questa, questo è il disco, il primo disco, il disco d'esordio. Quindi come tale reca sempre, il titolo stesso vuole significare quello che è il contenuto del disco, verso. Contiene due parole, la parola ero, il verbo ero, che è un chiaro richiamo alla tradizione, all'interno di una parola verso che esplicita direzione, orientamento. Quindi questi brani sono nati, si sono susseguiti uno dietro quell'altro, poi abbiamo avuto l'occasione appunto di riuscire a produrre questo disco, che al giorno d'oggi è una cosa molto rara, certo. E l'intento comune, manifesto e condiviso, è stato proprio quello di realizzare un'opera composita, cioè che fosse proprio un mosaico, il risultato e l'espressione di quello che eravamo noi in quel momento. È una questione di ricerca, perché io ricordo, faccio questo paragone, non so se sei d'accordo, al secolo scorso, cioè a fine del secolo scorso, molto verso tra il 1800 e fine del 1800 e inizio del 1900, un ricercatore inglese chiamato Cecil Sharp ha ripreso tutti i pezzi della tradizione folk e li ha numerati, ha fatto questo tipo di ricerca. Difatti, nei tutti i dischi folk, anche recenti, se prendi un pezzo che prende un pezzo folk, c'è scritto Cecil Sharp numero tot. Sì. È proprio una ricerca. È stato quel tipo di ricerca la tua o no? O solo una cosa che viene dalla tradizione, senza una ricerca vera e propria? No, è stata una ricerca. Okay. Perché volevo arrivare a questo io, a me interessava questo. Se c'è stata proprio una ricerca vera e propria. Sì, trovandomi in mano questo librone, no, di Villotte si chiamano, ecco, i canti tradizionali, sono andati delle persone che in Friuli detengono il sapere, in particolare un cantautore che è un carissimo amico e che veramente mi ha dato una mano. Stefano Morello? No, Stefano Montello è il paroliere. Lui è uno di quelli che mi ha dato sicuramente una mano, ma c'è un ricercatore che proprio va a sgarfare nella tradizione, come si suol dire, che è Lino Straulino. E lui proprio ha passato pomeriggi, lunghe chiacchierate con me e Marco, ad analizzare le villotte, a farci capire il perché una era più antica di un'altra, quali erano le tracce che facevano intuire che quella villotta apparteneva a un luogo piuttosto che a un altro. Poi ci ha raccontato un po' tutta la storia, l'importanza del personaggio femminile come detentore di sapere e come trasmettitrice. Beh, possiamo dare, dai, sì, la possiamo accettare. Inventiamo idiomi, ragazzi. Possiamo accettare. E che quindi, no, insegnava cantando quella che era la tradizione, l'importanza del canto corale, no? In alcuni periodi dell'anno per scongiurare certe disgrazie, per supplicare che i raccolti fossero positivi, insomma c'è tutta una magia attorno a questi canti, no? E quindi sicuramente c'è stata una ricerca in questo senso. Volevo arrivare a questo, io adesso ho capito. Cioè. Anche perché poi nel disco sono contenute tre tracce delle donnine, certo, il trio di Givigliana, che loro cantano proprio questi canti nella maniera tradizionale. Assolutamente tradizionale, è vero. E quindi c'è stata una volontà che ancora di più può essere magari vista come misciare nuovi elementi, creare ancora di più discontinuità, ma volevamo assolutamente far vedere quella che è la tradizione e il lavoro che noi abbiamo fatto nel rivisitarla, senza però mancarle di rispetto. Benissimo. Adesso la sentiamo, sì, questa cosa, questo progetto, insomma, cosa ci fai ascoltare dal vivo? Io vi farei sentire qualcosa in italiano. Sì, scegli tu. Vi farei sentire qualcosa in italiano, questa canzone che si intitola Come un aquilone. il cui testo è stato curato appunto assieme a me da Stefano Montello. La musica l'abbiamo scritta io e Marco, ed è una ballata che tratta la metafora dell'aquilone come un oggetto che vola in alto e ha la possibilità quindi di osservare il mondo dal di sopra, che è metafora un po' di chi come noi ha il grande privilegio di fare dell'arte, no? Che quindi riesce, diciamo, ad osservare la realtà utilizzando un po' tutti i sensi, in qualche maniera ad inoltrarsi in essa a nervi un po' più scoperti, no? Quindi nel bene e nel male, perché poi ci si fa anche tanto male, però si vive anche molto meglio, secondo me. E quindi la metafora dell'aquilone è questo oggetto che vola in alto, rimanendo però ancorato in qualche maniera. Quindi c'è l'importanza del piede a terra, no? Se, per non svolazzare e perdersi. Ti scopro filosofa stasera. Ok, come un aquilone. Blu Radio Sera. Ti devo fermare perché non ti sento, non ti sento la voce. Eccoti qua, devi riprendere. Stavolta Paganini ripete, adesso puoi fare un'altra volta. Vai pure. Visto da quassù, vedo del mondo il suo ordine. Sospesa dentro a un turbine, mi sento inattaccabile. Temerarietà è stringere un sogno, non cederlo per nulla che sia facile, e usare l'impossibile. Tendo le mie mani, il vento mi prende. Seta, sono seta, un volo planante. In volo mi alzo io nella sera. In volo ancora io, come se potessi almeno sentirmi seta. E l'aquilone è la mia libertà. In stallo picchia giù, si dondola. E lascio porti via. Parte di me. Tinte d'aria che sfiorano toni d'incredibile, galleggia il sole dentro me, dolcezza inspiegabile, e mi confonde già. Vorrei io, mai no, non lo vorrei, osare l'impossibile. sfidare ogni mio limite e seta, questa mia è parte di me. È mia, no, non la vendo, non finirà, e mi appartiene finché sia. In volo mi alzo io nella sera, in volo ancora io come se potessi almeno sentirmi seta. E l'aquilone è la mia libertà. In stallo picchia giù, si dondola, lascio porti via parte di me. Hai un dono, secondo me, Terza. Riesci a creare questa atmosfera molto particolare quando canti. Crei un'atmosfera dolcissima, romanticissima. Wow. Grazie. Chiedo scusa per il microfono, ma probabilmente c'era un problema di contatto, insomma. Ok. L'abbiamo risolto. Assolutamente. E l'estensione vocale è molto particolare, perché tu non hai fatto solamente questo, hai fatto un sacco di cose. Sì. E vuol dire facendo un sacco di cose. Musicalmente la voce l'hai utilizzata in tante variazioni. E qui non hai nessun problema, non hai nessun freno. Vai, alzi completamente e la abbassi quando vuoi. Sei duttile al 100%, almeno in questo pezzo, secondo me. Grazie mille. Sì, io ho fatto, vabbè, un musical, hai fatto anche qualcosa del genere, hai stato con Joe Di Tonno, quindi... No, lì è stata un'ospitata. È un'ospitata. Ho avuto la possibilità di cantare con lui recentemente, è stata un'esperienza grandiosa, davvero. Musical, sì, l'ho fatto quando ero ragazzina. Ma ti è rimasto dentro, perché questo può essere anche un pezzo da musical, se andiamo nell'estensione vocale, non ci sono problemi, può arrivare anche a quello, secondo me. Sì, beh, questo fa parte un po' dello studio, proprio della qualità vocale di ogni persona. Certo. Io ho una voce piuttosto acuta. Certo, no? Puoi andare su senza nessun problema. Diciamo che le tante esperienze a livello di studio e di approcci alla vocalità mi hanno più che altro, cosa difficilissima, aiutato ad avere una creatività proprio nella libertà di utilizzo della voce, che quindi passa dall'esecuzione così di una ballad a qualcosa più legato all'ambito della tradizione folcloristico, a qualcosa più legato all'improvvisazione nell'ambito jazzistico e improvvisazione anche nell'ambito proprio di gioco coi suoni. Ecco, attenti. Tendevi all'improvvisazione, forse Marco ti ha un po' fermato in questo momento, in questo arrangiamento, ma è un arrangiamento volutamente fatto per sta radio stasera, quindi chiaramente sì, chitarra e voce solitamente non lo eseguiamo esattamente mai, esattamente, quindi c'è questa impostazione, però tu puoi liberarti decisamente dall'arrangiamento, puoi andare oltre all'arrangiamento. Fortunatamente sì, è una cosa che cerco e su cui lavoro costantemente, insomma. Non mi piace mettermi la camicia di forza. Neanche Giulia, non si è mai messo, no. Nei suoi pezzi non si è mai messo assolutamente la camicia di forza. Nel senso che la voce è il mio strumento, no? Quindi voglio imparare proprio a sbirciare in tutti gli angolini e cercare di liberarla e semplificarla. Adesso sto pensando molto e mi sto concentrando un po' su questo, adesso che ho anche, mi sono diplomata al conservatorio su in Austria, quindi sì, mi piacerebbe un attimo svincolarmi adesso dall'accademia, riuscire a ritornare al grido della nascita in qualche maniera, no? Quello istintivo, proprio semplice, squillante, fastidioso. Puoi arrivare a Demetrio Stratos al femminile. A me Demetrio è una guida per me. Lo so. È una guida molto importante, una per guida fondamentale. Sì. Lui come altri riferimenti, Bobby certo, McFerrin, certo. Maria Joao, tutti questi che in qualche maniera utilizzano senza in maniera nuda, no? La propria voce, senza vincoli né paura di pregiudizi né... E senza tanti accessori. Sì, così come in maniera proprio come uno strumento, esatto, no? Nei suoni, nei versi, nelle pernacchie, nei... Sai, Maurizio, mi sembra di sentire la Patrizia quando è venuta qui. Sì, vero, verissimo. Ha le stesse tue idee, insomma. Infatti io non la conosco personalmente, abbiamo molti amici in comune, tra cui la Erika, appunto. Però è una persona che mi piacerà, cioè mi piacerebbe molto riuscire a incontrare. Mi farò una proposta, se tu sei d'accordo. Siccome lei me l'aveva già detto tempo fa, di fare una trasmissione con il sottoscritto qui a Blu Radio Veneto, con delle canzoni un po' particolari, magari può cantare anche le sue canzoni, magari invito anche te. Ma volentieri. Facciamo una serata con voi due, insomma. Sarebbe meraviglioso per me. Con chi vuole aggregarsi poi, insomma. Sarebbe molto bello fare una cosa alla ricerca poi della sperimentazione vocale, insomma. È stato positivo e bello che tu abbia citato. Grazie, cioè, abbiamo citato Demetrio, perché Demetrio è stato il primo in assoluto a fare queste cose in Italia, assolutamente il primo. Sì, è stato veramente un grande lui, un coraggioso, sì, un coraggioso pioniere. Al 100%, lui faceva con l'Università di Padova questi esperimenti, sì, praticamente. Infatti io nell'Istituto delle Arti Tradizionali a Genova, ho avuto modo di studiare con uno dei suoi maestri, questo Tran Quang Hai. Vietnamita, no? Con cui ho studiato il canto armonico. Cosa vuol dire canto armonico? Adesso facciamo un po' facciamo un po' di spiegazione, perché gli ascoltatori devono sapere, sì, cosa c'è dietro a questo progetto, a questo lavoro. Poi facciamo intervenire anche la Giulia, che sta fermendo sicuramente. Allora, il canto armonico, detta proprio in maniera, io ho fatto un laboratorio con lui, quindi vi dico quello che ho captato, è l'utilizzo della voce, predisponendo il corpo in maniera tale da riuscire ad emettere quelli che sono gli armonici, perché ogni nota che noi udiamo, no? Ogni suono ha una nota fondamentale, ma oltre a questa c'è una sovrapposizione di armonici che fanno sì che il timbro mio sia diverso da quello di Giulia. Chiaro. E quindi è ciò che fa sì che ogni voce sia originale. Questo canto, che è un tipo di canto delle tradizioni, nella Mongolia, piuttosto che in altre, i sardi stessi utilizzano, sì, no, il tenore, certo, il canto armonico, con un canto piuttosto gutturale, appunto fanno emergere chi in un'altra questi armonici, no? I suoni puri del suono. Questo è, insomma, ed è uno tra i tanti canti delle tradizioni, insomma, accanto a questo ce n'è una serie infinita. Mi fermo solo e ti dico una cosa, l'altro giorno, la settimana scorsa, abbiamo ospitato il Cambodia Space Project, erano tutti musicisti cambogiani guidati da uno strepitoso musicista australiano, si chiama Polse, e la leader era una ragazza cambogiana, e aveva questo mantra che continuamente... faceva una specie di ipnosi, cantava in maniera particolare questo continuo mantra. Loro utilizzavano le armonie in questo senso. E mi è venuto in mente questo quando tu mi hai parlato di armonia, di studio di armonia. Questa chiaramente era cambogiana, cantava da cambogiano, viveva in Cambogia, però è riuscita a sdoganare il discorso musicale e è arrivata fino in Europa. Quindi è già positivo, è molto caspita. Positivo. Cosa ne pensi, Giulia, di questo discorso? È positivissimo. Non si smette mai di imparare qualcosa di nuovo. Stavo ascoltando ammirata Elsa. questo studio, questo sdoganare, questo andare oltre. Perché il progetto tuo è quello di andare oltre. Vedi che c'è allora la speranza di riuscire a sdoganare? Certo, che famo? Sdoganiamo? C'è la speranza. Beh, noi insomma come radio cerchiamo anche di farlo. Ma se voi siete grandiosi, veramente... una fortuna, no? Riuscire a conoscervi e sapere che nel territorio, nel Triveneto, nel territorio italiano vi siano ancora posti in cui uno possa esprimersi con la propria, col proprio linguaggio musicale. E questo è fantastico. Cosa dici, Marco Bianchi? Fantastico, sì. lui è coinciso. Lui è maestro, quindi deve giustamente dare il tocco finale. Adesso cosa ci fai sentire? Allora, vi faccio sentire proprio una villotta che si chiama Alva Iva Enkiel Sorelli. Questa villotta veniva cantata dalle donne. La facciamo sentire dal disco. Ah. Sì, ok, nessun problema. E veniva cantata da queste donne durante la prima guerra mondiale, quando gli uomini partivano per la guerra, e le donne intonavano questi canti dell'emigrazione. Questa in particolare dice: piangeva anche il sole nel vederlo partire, ed io che sono la sua donna non dovrei forse piangere. Quindi delle parole davvero struggenti. Nel disco c'è sia la versione cantata dal trio popolare sia la nostra versione arrangiata, e quindi la facciamo sentire adesso. Si intitola Alvaive Enchie il Soreli. Alvaive Enchie il Soreli. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Qui ti chiedono di suonare dal vivo, comunque, sai, cioè vogliono sentirti suonare e cantare dal vivo. Comunque, aspetta, è Serena che è impaziente di sentirti di più. Allora, intanto mi devi tradurre cosa vuol dire questo titolo. Piangeva anche il sole. Oppure anche il sole piangeva. Il sole anche piangeva. Non ci sarei mai arrivato. Non, eh sì che siamo vicini, insomma, come regione. Eh sì, però è completamente diverso. Ma tu dove li hai trovate queste storie? Hai dei testi, qualcosa? Sì, beh, esistono dei libroni, c'è il libro sacro delle villotte friulane e altri testi di autori del passato. Ma poi in qualche paesucolo sparso nella montagna o nei paesi della campagna ancora si intonano. Se si ha la fortuna di trovare le vecchiette ancora vive, no? Che ti cantano, raccontano. Ti raccontano e ti cantano. Quindi c'è, insomma, si è mantenuta come tradizione abbastanza. Questo pezzo finale era, come parlavo con la Giulia e con voi mentre il pezzo andava, era una jam session totale alla fine, una jam session popolare, proprio quelle belle cose alla Pogues, proprio con tutti gli strumenti che via vanno forte, il violino che dà un trascina proprio tutti gli altri. E questo dal vivo riuscirà benissimo, con un sacco di archi, un sacco di gente che suona, sarebbe meraviglioso. Sarebbe bello, purtroppo però trasportare orchestre in giro è il giorno impossibile d'oggi. Però l'idea è quella, è l'idea di questa jam session, questa musica in movimento. Questo pezzo qua proprio dà questa impressione. Un me. Po' lo facciamo, nel senso che la formazione con cui stiamo concertando questo disco è una formazione di estrazione jazzistica, c'è un vibrafono, il contrabbasso, violino, batteria, percussioni, chitarra, la voce e la voce narrante, quindi voce c'è anche narrante, un attore, no? Certo. Che tira le fila delle storie e lo stampo è comunque creativo e improvvisativo. Esattamente, perché nasce tutto da quello, dall'improvvisazione, anche la ricerca è improvvisazione, secondo me. Assolutamente. Assolutamente, l'improvvisazione, il concerto è la miglior prova che ci possa essere, no? La miglior sala prove. Quindi siamo in concerto adesso, cosa suoni? Adesso certo. C'è una richiesta. Sì. Io immagino se è la Serena cosa possa richiedere. Cioè? Calda sera. Hai fatto tutto. Ciao Serenucchia. Eccola qua, allora cosa ci fai ascoltare allora, adesso? Vi faccio ascoltare Calda sera. Che? Questa qua è una canzone a cui sono particolarmente affezionata perché tratta un tema a me molto caro, che è un affetto, la mia nonna, e quindi reca con sé emozioni fortissime. La sera che addormenti al crepitio di un fuoco a nostalgia. Canta il grillo i cinque suoni dell'addio, si fanno litania. Tieni stretta la mia mano come fossi una preghiera, chiudi gli occhi e una candela, come tempo si fa cera, calda sera e non ci sei, ma se ieri non finisce, non passa, se appassisce, non crede nell'autunno. Scorre sulla storia, si bagna di memoria di te, che resti. Fa volar colaio le frasi del rosario, l'abbraccio contro il buio, come ninna nanna. Chiami piano nonna, son qui, sei qui, ma torni via. Forse sei via. Calda sera che ogni sogno è il tremolio, un lume in agonia. Tre fiammiferi rimandano l'oblio fingendo fantasia. Tieni stretta la mia mano come fossi una preghiera. Lago il filo del ricamo da disfare quando è sera, quando è il tempo che vorrei. Ma se ieri non finisce, non passa, se appassisce, non crede nell'autunno, scorre sulla storia, si bagna di memoria di te, che resti, fa volar colaio le frasi del rosario, l'abbraccio contro il buio, come a ninna nanna, mi chiami piano bimba, son qui, sei qui, ma torni via. Forse sei via. Resta lì, adesso me ne fai un pochino in friulano, perché qualcuno mi ha detto che è ancora più bella. Ritornello? Per te è uguale. L'aria si consume, la vita è come sbrume di marca me ne rive. Tutte la tua vita, tal cof della me vita di te. Mi reste l'olme dal tuo amor come un pit al savalon, come un york al schiampe vie. Corrimi da ur, prove chiapimi dal scur, volti voi e tu, no tu ses plui. No tu. No, tu sei lui. Ha scritto, ha fatto la risata che è stata contentissima, poi ha scritto mi ammazza. Ciao Serena, hai visto, abbiamo fatto accontentato anche la tua carissima amica, insomma. Grazie, ciao Sere. Questo pezzo ha una particolarità, friulano, bellissima, ma in italiano secondo me è significativo, è l'anello di congiunzione tra la musica italiana e la musica friulana, il friulano, cioè la tradizione e l'attualità, e sono le ultime frasi, l'ultimo ritornello, la nenia che tu canti. E quello è l'anello di congiunzione, secondo me. Beh, perché lì è un senso non senso delle parole, sì, no? Sì, lo so, però la musicalità popolare e la musica sì, di adesso sì, si sì, congiunge sì. con quella nenia, la sì, finale. Io sì. la vedo così, non so se sei d'accordo anche te. Sì, infatti anello di congiunzione l'ho usato, è una parola che ho usato anch'io, esatto, nella recensione. Sì, esattamente. Mi riferivo a questa canzone perché è una canzone che è appunto italiana, quindi esatto, direzione, però fa rivivere con le parole un mondo che è passato, quindi è vero, che c'era. Non nelle parole appunto nel mondo Rosario, Ercolano, certo, sì, Ricamo. E sì, lei fa una ballata e si vede come l'ha interpretata in modo molto intenso. Gli ascoltatori non hanno le telecamere, quindi non possiamo vederla. Però noi l'abbiamo vista, io sono nella fossa dei leoni, quindi l'ho vista assolutamente. L'ho visto l'intensità, il pathos che hai dato al pezzo. E giustamente, come sottolineava Giulia nella sua recensione, l'anello di congiunzione è anche il pathos, l'intensità, ma l'attualità nello stesso tempo. Anello di congiunzione, secondo me, perché comunque tratta un tema... che è un affetto, no? E che nei canti della tradizione si ritrova molto come tematica, quella degli affetti, dell'amore, dell'amicizia, delle nozze, della felicità, della goliardia, del buon vino, no? Tutte cose molto, molto semplici, molto vicine, molto quotidiane. Quindi probabilmente no, una tema. Giulia ha dato proprio la chiave di volta perfetta quando ha recensito e parlando di questo anello di congiunzione. Ma non, nella musica popolare c'è spesso e volentieri l'anello di congiunzione. Quando si vuole fare musica popolare, attualizzare, non nel senso negativo, ma presentarla, sì, adesso, ci deve essere questo punto, questo modo per poterla farla sentire. Che non sia veramente troppo di elite, hai capito? Cioè, sì, forse la difficoltà proprio risiede in queste parole che stai dicendo, no? Il fatto che comunque qualcosa della tradizione deve risultare attuale, senza ledere al senso vero della tradizione e senza neanche andar contro a quella che è l'espressione del musicista che cerca di fare questa operazione. Quindi diciamo che è un insieme di equilibri non sempre facile da gestire. No, assolutamente. Poi tu fai un progetto interessante con un giornalista della RAI. Sì. Che? L'amico Sandro Petrone. Esatto, che progetto che è molto interessante. Allora, Sandro Petrone appunto ha fondato questa associazione, questo progetto Ambasciatori in Musica, in breve ve la racconto, ha scelto degli artisti del territorio italiano, per lo più emergenti, ma anche conosciuti, e in alcuni periodi dell'anno, soprattutto in settimane legate alla cultura italiana, cerchiamo appunto di portare quella che è la nostra specificità musicale sul territorio internazionale, per far conoscere quello che gli artisti dell'Italia fanno anche al di là della proposta in italiano, insomma, anzi è una valorizzazione di quelle che sono le specificità territoriali. E quindi da parte sua è stato veramente sì, io gli sarò grato tutta la vita, insomma, nel senso che è una persona che comunque ha un occhio di riguardo verso i giovani, verso chi tenta di fare questo nella vita, di proporre con coraggio la propria espressività nella musica, insomma, non è da poco. Sì, sì, sono perfettamente d'accordo. È un progetto interessante, un'iniziativa interessante, un'idea interessante che tu stai portando avanti assieme ai tuoi colleghi di tutta la parte. Che difficoltà hai a portarla avanti questa il friulano? Cioè a livello anche suonare nei locali, per esempio. Allora, per scelta comunque scegliamo dei posti e interpelliamo persone che possano essere interessate in qualche maniera. Quindi non andiamo a suonare dappertutto. Certo. Quest'estate, da quando il disco è uscito, cioè a fine maggio, abbiamo avuto la possibilità di suonare in contesti tipo teatri o festival, comunque in situazioni in cui la gente che viene ad ascoltarti viene ad ascoltare te, perché sa quello che fai. Che fai, certo. Quindi c'è un po' una scelta, che è ancora maggiormente difficile, perché non c'è la possibilità né di svendersi né di diffondersi come il prezzemolo più di tanto. Saremmo hanno tentato di fare una cosa di quel genere, però Saremmo, ti ricordi quel concerto che viene da Bergamo, che cantautore? Sì. Sì. Puoi dirlo te chi è? Vandesloss. Esatto, proprio. Lui, cioè, ha fatto questo progetto cercando di fare un pezzo accessibile a tutti quanti. Lui ha chiaramente un'altra tematica, però ha tentato di sdoganare il discorso, l'ha sdoganato bene perché ha cominciato, sì, infatti, a vendere molto bene. Infatti, ma infatti non è un progetto campato in aria, è un progetto interessante. Assolutamente, assolutamente. Al di là di tutti i discorsi pseudopolitici, è un progetto interessante. Ah, perché? Se una lingua è bella da sentire... Perché l'hanno etichettato in una certa maniera, in modo sbagliato sicuramente. Ma io confido sempre nelle buone intenzioni. Certo, insomma. Lui sicuramente aveva delle ottime intenzioni ed è riuscito dopo tanti anni a portare un progetto a tutta Italia e non solamente al distretto posto dove viveva. Ma io ci credo fermamente in questa cosa. Cioè, l'importante è che chi lo fa... per primo, no? Certo. Sia convinto, certo, delle sue motivazioni e intenzioni, perché anzitutto se vengono a crollare le motivazioni cioè non avrà lunga vita, no? Il percorso che si intraprende. Però se uno ci crede, onesto con se stesso, coerente in quello che propone, insomma, e si fonda e fonda il suo lavoro su dei valori importanti, secondo me ci sono delle possibilità, insomma. Poi scusate, dipende molto anche da come viene presentato. Certo. Perché d'accordo. La tradizione per un giovane tendenzialmente è una cosa abbastanza vecchia e noiosa. Ok, quindi difficilmente un artista che suona in dialetto o in lingua minoritaria ha il successo nazionale, internazionale, perché, anzi, piuttosto internazionale che nazionale. Sì. Assolutamente internazionale, più che nazionale. Perché difficilmente viene reso appetibile anche dal pubblico giovane, che è quello che poi crea il numero più di tutti. Certo, no? Io ricordo l'esempio di Alan Stivell, che cantava in gaelico, ha sempre cantato in gaelico, però ha sdoganato tutto il mondo, non c'era niente da fare. Quando veniva, io ricordo un suo concerto a Mira, quindi vicino da qua, molti anni fa, lo stadio era pieno, ma lui cantava in gaelico, non cantava in francese o in inglese, cantava in gaelico, assolutamente in gaelico. Sì, sì. E quella era la sua lingua. È giusto, è bello, è meraviglioso. In Italia ce n'è anche qui in Veneto. Esatto, esattamente. Per dire, Pittura Fresca mi vengono in mente. Sì, adesso non ci sono più, però come no, esempio lo hanno so, fatti. Lo so. Ma sì. Gualtiero, lo stesso... Gualtiero Bertelli, esatto, Gualtiero Bertelli, grandissimo personaggio. Sì, quindi voglio dire, la stessa Laquidara, cioè ha fatto un lavoro di ricerca. Sì, però è difficile, in Italia è difficile. All'estero è più facile, in Italia è difficile. È molto difficile. È difficile che venga capito già da chi organizza gli spettacoli. Forse in Italia l'unica regione che può vantarsi questo primato, diciamo, è la Campania. Napoli. Lì c'è proprio una tradizione, no? Che è fortissima. È Napoli forte. È fortissima come lingua. Però la stessa Sardegna, insomma, in azienda, Andrea Parodi. Cioè, abbiamo dei precedenti che sono potenti, insomma, bisogna un attimino anche smetterla, no? Io incontro tante difficoltà, nel senso, sono una giovine, posso dirlo ancora? Certo. Certamente. Di 30 anni. Rispetto a me sicuramente, assolutamente. Che faccio, che cerco di portare avanti quello che è il mio linguaggio e incontro, che ne so, mia zia che mi dice, ma perché canti tu in Furlan? Perché canti in friulano, no? Nel senso che già nella cerchia ristretta delle persone più vicine non c'è la comprensione immediata. Però, stride, no? Il giovane che canta qualcosa di vecchio. Però poi magari lo sentono che è comunque riproposto in una maniera personale, nuova, insomma, in una maniera giovane, non siamo vecchi. Certo. E allora poi c'è il ribaltamento, no? di opinione. Insomma, è difficile anche riuscire a scaldare un po' i cuori e a far cambiare opinione a menti che hanno dei preconcetti, pregiudizi. Certo. Adesso però ci canti ancora qualcosa. Sì. Vi canterei appunto questa Ostaimi Atens, che è un'altra villotta popolare, viene cantata ancora oggi nel periodo natalizio, tratta della nascita del bambinello, e noi la riproponiamo in questa chiave assolutamente nostra. E che si intitola? Ostaimi Atens. State... Aliator. Thank you. stai-mi attento, o stai-mi a sentire, stai-mi a sentire. Allora ti ho che sai da di, allora ti ho che sai da di. O stai-mi attento, o stai-mi a sentire, stai-mi a sentire. Allora ti ho che sai da di, allora ti ho che sai da di. Stat in ogni look, in ogni look, e si sentive chianta lucur, e si sentive chianta lucur. Il Redentore le nassut, nesta la nasti gran splendor, chiantin son in desillis, maravesti che stagnot, pareve stati in ogni look, alle nassut palestri amor, chiantin son in desillis, maravesti che stagnot, il Redentore le nassut, nesta la nasti gran splendor, chiantin son in desillis, maravesti che stagnot. O stai-mi a sentire, stai-mi a sentire. Allora ti ho che sai da di, allora ti ho che sai da di. Lo faccio dire a chi me l'ha detto questa frase, che credo sia la persona, forse che è meglio che faccia lui quello che ha pensato, che lo pensa nel cuore, insomma, quello che sta pensando. Prego, Gil. Ciao Elsa. Ciao Gil. Ciao a tutti. Volevo solo dirti una cosa: tu non hai una voce dentro, hai uno strumento. Mamma, grazie mille. Grazie di cuore. E ti è diventata rossa, eh? Ti vedo. No. Sì, ma ci ho dato dentro. E questo era un pezzo molto... aveva due chiavi di lettura sto pezzo. Non so se sei d'accordo anche Giulia. A me piaceva molto la chiave di lettura che ha dato Marco. Ha percosso la chitarra come fosse un basso che ti entrava dentro, senza nessun problema. Entrava dentro, assolutamente. Poi è ritornato alla romanticità, il pezzo romantico. Ma questo basso, questo è un basso, anche se è una chitarra acustica, questo è un basso, volutamente un basso. L'hai colorata come musica quasi brasiliana, secondo me, latina, jazzata, assolutamente jazzata. Poi no, sei ritornata alla tradizione. Cosa ne pensi, Giulia? Sono d'accordo. Esaustiva. Quella sezione lì è stata composta completamente da zero, non faceva parte del brano originale, e perché secondo me c'era bisogno di sì, una scossa. Sì, questa propulsione, una scossa. Hai dato veramente, adesso me lo rifai un momento, questo basso incredibile, sì, che mi è piaciuto tantissimo. Hai dato proprio un impulso, poi hai martellato la corda, l'hai quasi rovinata. Un po' zeppeliano sto qua, un po' zeppeliano, assolutamente zeppeliano. Progressive. Questo è Blu Radio Veneto, ragazzi. Dal questo vivo, dal vivo, e mica si improvvisa tutto. Fantastico. Chi è che scrive la musica? Allora, di solito le canzoni le scrivo io, chitarrina e voce o pianino e voce, e poi affido al caro Marco Bianchi e lui ci mette del suo. L'arduo compito di vestire questi accordi, poverelli. Poi altri brani invece li abbiamo composti assieme. Sì. Tipo questo, vabbè, che della tradizione l'ha arrangiato lui. Quindi con tutta la storia, no? E la dinamica del pezzo. La Luz, che sentiremo dopo, l'abbiamo scritto assieme. E altri brani come Neule Scure, il primo che avete sentito, l'ho scritto io. Poi ovviamente l'arrangiamento... Prendi spunto comunque da qualche testo, dicevi, giusto? Per quelli la tradizione sì. E gli altri invece? No, sono nuovi, no? Sì, sono originali. Sì. I testi di qualcuno, ultimamente sto iniziando a scrivere anch'io i testi in friulano. Soprattutto, se no, c'è il mitico Stefano Montello. Possiamo citare i musicisti che ti hanno dato una mano nel disco? Allora, in questo disco abbiamo Marco Bianchi alla chitarra e arrangiamenti, sì, Lucia Clonfero ai violini, certo. Francesco Socal al clarinetto e clarinetto basso, Alessandro Turchet al contrabbasso, Emanuele Donadelli batteria, dopodiché abbiamo Alberto Roveroni produzione artistica, lui è il produttore del lavoro, che tra l'altro è di Padova. Salutiamo. Ciao. Magari Alberto ci sta ascoltando. Vive a Milano, però. Batterie aggiuntive, qualche brano l'ha registrato, certo, lui. Mauro Costantini al pianoforte. C'è scritto poi... anche Marco Bianchi, chitarre, arrangiamenti e computer programmino. Che cos'è il programmino? Programming. Yes, programming. È stato scritto male. Programming. Spero che nel disco non sia scritto così. Programming. No, confermo, è scritto programming. Cosa è scritto bene. Sì, perché molti brani hanno delle strumentazioni non reali, quindi ho usato molto il computer. Ho capito. E mi piace perché ti dà la possibilità di non avere limiti. Puoi andare dove vuoi. Qualunque suono che cerchi. Sì, il computer però è usato in un certo criterio. Beh, per forza. Assolutamente. Per forza. Noi arriviamo a certe cose che ben conosciamo. È sempre quasi non far capire che c'è. Esattamente. No, come un tempo dispari, in molti dei nostri brani non si sentono. E questo è importante. Sì, che sì. Vuol dire che è musicale. Certo. Sommato, assolutamente, no? Assolutamente. E il trio di Givigliana? Allora, il trio di Givigliana qui è un'altra... fa sempre parte della ricerca. Io volevo assolutamente... riuscire ad inserire nel disco appunto quella che è la fonte originale, viva, vera, pura del canto friulano. Sicché ho chiesto a un antropologo, un ricercatore della mia regione, Walter Colle, di consigliarmi appunto delle vecchiette ancora in vita, no? Che potessero aiutarmi con dei cori o appunto esibirsi in qualche pezzetto, no? Sicché mi ha fatto il nome di queste tre donne spaziali che fanno proprio dei cioè le chiamano, è pazzesca sta cosa, la più anziana c'ha 80 anni, E ha una voce d'usignolo meravigliosa, e quindi ho telefonato al capogruppo, al capotrio, e le ho chiesto: vi piacerebbe fare questa cosa? E lui: sì sì ninine, volentieri, no? Sì sì ninina, molto volentieri. E sì, che poi un giorno l'abbiamo portata nello studio di registrazione, è stata tutta una risata, perché tre vecchiette in uno studio di registrazione sono veramente buffe. Però sono state bravissime, hanno fatto la loro registrazione, tipo buona la prima, perché loro neanche si fanno troppi problemi. No, eh. Immediatamente. Via, subito. Via. Come Mina praticamente, assolutamente. E quindi... Lo sai che anche la Patrizia ha fatto la stessa cosa? Sì. È andata a delle anziane, delle signore anziane, che loro sono però gente che sta lì, che ricama, oppure fa i mestieri, eccetera. E proprio le ha registrate proprio dal vivo lì e le ha messe all'interno del disco, appunto, in dialetto vicentino. Esatto, e poi ha cercato un posto specifico in un vicino Vicenza. Solo quel posto là ci sono quelli rappresentanti là, quelle voci là, solo quel posto là. Maurizio, pensavo, possiamo fare una trasmissione, no? Lei canta in friulano, Patrizia in vicentino, noi parliamo in padovano, che dici? Benissimo. No, loro cantano benissimo, la mia parlata in padovano lasciamo stare, assolutamente non fa parte di questa. A parte gli scherzi, si potrebbe comunque fare una trasmissione in diretta. Un'ultima cosa, Elsa, per chiudere il discorso dei tuoi personaggi che sono stati all'interno del disco, i bambini di Betania. Ah, ecco, questa è una cosa proprio romantica, qui esce tutto il mio romanticismo. Sì, che è un'altra delle mie trovate geniali, perché poi queste cose, no, hanno subito: ma tu sei pazza, ma provo a immaginarti portare 20 bambini scatenati in uno studio. E io mi sono armata invece di fermezza carnica, ho detto no, questa cosa io la voglio fare. Sì che ho interpellato proprio per questa canzone, che richiamava, no, questa, l'idea della purezza, no? La luce è presente in questo brano che si intitola La Luz, e richiamava il canto del bambino puro, no? E tenero, cristallino, luminoso. E allora sono andata a pescare proprio nel luogo in cui io iniziai il mio percorso artistico, cioè quando avevo 4 anni, il prete, stufo di sentirmi urlare dalla parte della platea, disse a mia mamma: signora, forse è il caso che venga nel coro a urlare, cioè così almeno ce l'abbiamo qui, e anzi può essere un robusto sostegno per il coro dei bambini. E sì che io iniziai a 4 anni a cantare proprio in questo coro. Una generazione dopo ho chiesto alla mia maestra, che è ancora lei, no, che dirige il coretto dei bambini, se sarebbe stata, per i congiuntivi, alle 21:19. 22:19. Anche voi siete come la mia macchina. Questo è l'orario di Londra. Ah, veramente? È l'orario di Londra. Sì, noi abbiamo l'orario delle Olimpiadi che sono già andate, ma adesso ci sono le Paralimpiadi, quindi siamo sempre in forma. Per quello. E quindi poi si sono dimostrati veramente gioiosi e li ho invitati in questo studio di registrazione. I tecnici e il carissimo maestro Marco Bianchi hanno patito le pene dell'inferno, ma alla fine il risultato è stato delizioso. Quindi in una traccia c'è presente anche l'ospite del coro dei bambini di Betania. Non ti sei fatta mancare nulla? Nulla proprio. Vuoi riposarti un pochino adesso? Come vuoi. Se o vuoi suonare e cantare dal vivo? Scegli tu. Dai, facciamo sentire... Posso fare un cambio di scaletta? Puoi fare tutto quello che facciamo vuoi. Facciamo proprio sentire questa, La Luz, numero 12. Del, sì. Del disco? Sì, che così li sentiamo subito i bambini. Certo, perfetto. Ok. Dal cielo tremant gli stelli s'avan sfiorit dall'alpe d'alti da ur la mont plata d'enchimo nul sveal moncidi. Chiant dal scur di che stegnot si pant piel blanc che lui Radio Sera. Blu Radio Sera. C'è la Ghost Track qui, vero? Track. Track. Ghost Track. No, quella facciamo dopo. Molto dopo. Ma nel senso che poi finisce così, poi c'è lo spazio. E dopo, sorpresa. Surprise. Allora, questa è Blu Radio Veneto con Agostino Spolore, con Maurizio Calzavara. Vi ricordo il nostro numero di SMS, se volete mandare qualche SMS a Elsa, il 346 23 20 033. Siamo in diretta, penso che ci saremo fino alle 23 circa. Alberto, come già vi abbiamo avvisato, non c'è neanche questo giovedì. Salutiamo. Salutiamo, comunque è rientrato, si è ripreso, si è riposato. Soprattutto ci sarà dalla settimana prossima con la sua classifica di musica rock, ma intanto questa sera abbiamo Elsa Martina e il suo verso. Parliamo di una cosa che piace sentire anche ad Agostino, la vostra partecipazione a Sanremo Giovani, sia di Giulia sia di Elsa. Vai, microfono è per voi. Ok, Agostino, perché ti piace ascoltare questa cosa? Su Sanremo Giovani. In che senso ascoltare questa cosa? Questa è la loro partecipazione, come hanno partecipato, come si sono sentite. Beh, certo. Io so solamente la storia di Giulia, che ha avuto un contrasto con una sua canzone, se non sbaglio, con un video che ti hanno fatto fare, che poi non eri tu? No, non eri tu. Mi sembrava che fossi tu che ti avevano fatto fare una canzone, poi invece eri fuori età. Ma quello stiamo parlando di un altro anno. Ah, di un altro anno, sì. chiedo scusa. Siamo nel 2010. Quindi poco tempo fa. Allora ci raccontate com'è stato l'impatto. Allora. Parto io? Sì, vai. Allora, era l'anno in cui le porte si aprirono anche ai dialetti, lingue minoritarie, no? Certo. E dunque io dissi, bene, perché non partecipare con un brano in lingua friulana? Che è stata una cosa che comunque divertente per me, accolta in maniera positiva dagli addetti ai lavori, così, insomma, ha incuriosito. Come poi non è successo assolutamente niente, ovviamente, però intanto la notizia, diciamo, che è emersa in qualche maniera. In quell'anno c'era la Giulietta che partecipava. Come è partecipato, sì. Giulietta? No, penso che sia stata la volta in cui ci siamo conosciute anche di persona. Sì, esattamente, sì. Io partecipavo in italiano e cantavo Sei nell'aria e tutto il resto niente. E niente, si è partecipato, si è rimasti a casa, ma la canzone dicono che si è piaciuta, per cui... Però non vi hanno chiamato. No. Però avete tentato. Però ci hanno ascoltato, perché erano, penso, no, forse non il primo anno, ma il secondo, in cui non soltanto Sanremo si apriva ai dialetti, ma si apriva anche a internet. Ah, okay. Si poteva scrivere su internet, le canzoni andavano, insomma, su internet. E comunque nel grande calderone qualcuno sicuramente ci ha ascoltato. Come si chiamava la canzone? Sei nell'aria. Scusate la R moscia, però. E come faceva? Fragili, gli istanti in cui non vivi, fragili gli istanti in cui non credi. Come mai, come mai che tutto poi riparte sempre dall'istante di due ali pronte a risalire. Sei nell'aria, sei nell'aria. Grazie Giulia. Tutto dal vivo, eh? Tutto dal vivo, assolutamente. Penso che si sentisse. Beh, questa è una partecipazione. Poi hai partecipato a tante altre cose, te. Non solo Saremo Giovani. Sì, beh, vabbè, a livello esibizioni in radio, in televisione, eccetera. Qualcosina sì. Vabbè, concorsi, da quando sono ragazzina ne ho fatti veramente molti, molti di più quando ero giovinetta, a dire il vero. Dopodiché sì, festival, rassegne. Ma è importante partecipare ai concorsi, al di là delle giurie, per farsi conoscere, per farsi sentire. Se ci arrivi, sì. Se ci arrivi, esatto, se ci arrivi. È importante, sì, nel momento in cui arrivi a una fase finale, tipo l'accesso per me al Da Ponte, che risale ormai al 2008, mi ha aperto un sacco di possibilità. Insomma, in quella sede ho conosciuto Sandro Petrone, certo. E da lì sono nate delle collaborazioni. Erika l'ho conosciuta in quel contesto, quindi sicuramente avere la possibilità di calcare certi palcoscenici e entrare in contatto con delle persone addette ai lavori nel settore è sempre utile. La difficoltà sta appunto nel riuscire a proporre qualcosa di nuovo, non tradizionale, che rispecchi, anche perché poi ogni concorso ha delle caratteristiche, certo. Di certo noi che tante volte proponiamo musica in friulano, gli accessi sono limitati, quindi tutta una serie. Una vostra conterranea, cioè Elisa, per citare Elisa, lei è arrivata, va bene che aveva la Caterina Caselli dietro, altri anni anche. Però ha fatto un pezzo non prettamente sanremese, col testo di Zucchero, non era un pezzo un po' fuori di Sanremo, erano altri anni, sono d'accordo, però ha tentato. Molti diranno, sì, aveva la Caselli, siamo d'accordo che aveva Caselli, però il pezzo era assolutamente non sanremese, e quello, è quello, e non era famosissima all'epoca Elisa, è stata sdoganata da Sanremo anche quella. Al di là di questo, certo. Senti, già che parliamo di Elisa, ne approfitto subito per fare la domanda che ormai l'hanno imparato tutti a memoria, la facciamo anche a te perché insomma ci sembra dopo farla. Cosa ascolti quando sei nel tuo tempo libero, insomma? Oppure meglio, cosa ti porteresti in un'isola deserta? Tre dischi. Tre dischi. Yes. Oh signor benedetto. Aspetta. Allora, purtroppo allora, nomi di dischi io ti posso dire di artisti. Stevie Wonder, bellissimo. Bobby McFerrin. Cosa ti piace Stevie Wonder? Stevie Wonder come canzoni, da Lately, Overjoyed, Superstition, insomma un po' tutto di lui. Lui è uno dei miei riferimenti del cuore, sì, musicali indubbiamente. Isn't she lovely? Isn't she lovely? Con lui? Sì, con lui, vabbè. E non parti? Ancora. Isn't she wonderful? Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute world, and I heard that all that I, la la la la la la la, di do do da di, yeah, credo sia la prima volta, Maurizio, che facciamo. Il karaoke. Beh, il karaoke con Stevie Wonder, un grande karaoke. Poi sicuramente Bobby McFerrin. Lui, vabbè, ha anche lui una discografia vastissima. Non saprei ma scegliere. Ma tutti lo ricordano per un pezzo solo, almeno in Italia. Sì. Vabbè, Don't Worry, Be Happy. È sempre quello. Però in realtà ha fatto sì un lavoro di ricerca, certo. L'ultimo disco proprio guarda un po' alle musiche del mondo. Anche lui ha fatto questo tipo di lavoro. Ma sì. Il successo di questo pezzo è stato grandissimo, che era forse contagiato, nel senso che molti, almeno in Italia, parlo di Italia, lo ricordano solo esclusivamente per quel pezzo là, non negli altri parti del mondo secondo me, però in Italia hanno questa tendenza. Io l'ho sentito recentemente nel telefonino di un mio collega, sì, esattamente nella segreteria del telefonino. Ecco, assolutamente è un tormentone. All'epoca i tormentoni non esistevano, però è come fosse un tormentone. Beh, lo è. Lo è e continuerà a esserlo. È uno di quei brani che non stanca mai. Esattamente. Poi mette un'allegria. È vero. Ti ci vedo a cantare questa canzone, sai, Elsa? Però non so le parole. E poi il terzo. No, perché il disastro atomico della sottoscritta è che mi invento sempre le parole. Vabbè. Cioè, pazzesco anche nelle mie canzoni. Ma quando fai il concerto fai anche cover? O solamente cose? Ma adesso no. No, solo tranne quando facciamo i concerti in duo, trio, quartetto, jazz. Allora lì sì, sono standard della tradizione. Cioè, beh, certo. Quindi... E poi un terzo artista che mi porterei dietro, è perché ce ne sono tanti. Lo so. Io vabbè, c'ho nel cuore Aretha Franklin, però mi piace moltissimo anche Maria Joao, un'italiana che mi piace un sacco. Ecco, musica italiana non ascolto molto, Antonella Ruggero. Lei è un perché ti piace Antonella Ruggero? Perché lei ha una vocalità che post Mattia o prima? O anche con Mattia Bazzar. Sì, ha un uso della voce che è pazzesco proprio. Cioè, lì veramente c'è da imparare, ma... Io non ho mai capito come facesse andare sul cavallo bianco. Guarda. Quello non l'ho mai capito, quindi... Che bella canzone. Che bei tempi. Lei è veramente straordinaria. Straordinaria. Pazzesco, è stato pazzesco. Un album bellissimo quello. Cioè, se dovessi pensare a un punto, no, di riferimento della tradizione italiana, più che Mina, che era una grandiosa interprete, però mi piace molto chi della voce... Cioè, Mina è spettacolare. Mina sa fare tutto, però, Mina. Assolutamente sì. Tutto. Però... la Ruggero è particolare, sì, questo, cioè, chi ha particolari, come una che mi piace un sacco anche Maria Joao, ad esempio, questa, il fado, musica portoghese. Sì, lei è più una sperimentatrice, però ad esempio Dulce Pontes sicuramente la adoro, certo. Cioè, ha una carica emotiva quando canta che... Perché la musica portoghese, perché il fado o musica vicino a questo? Vabbè, perché nelle musiche tradizionali c'è uno svuotamento del sacco, cioè proprio un utilizzo della voce integrata al corpo, è un tutt'uno, no? Che bello sta frase, com'è la frase che hai detto? L'utilizzo della voce integrata al corpo, te lo faccio anche col gesto. Benissimo. E quello è un aspetto, ma come i cantanti solo, ad esempio Ray Charles, ad esempio Aretha Franklin. Ma anche lo stesso Stevie Wonder. Lo stesso Stevie Wonder. Un soul. Più da pop, cioè più popolare, ma è sempre solo anche lui. Cioè, sempre di anima parliamo, nel popolare, sì, o nel soul, popolare. Sono due terre diverse, lontane, però cioè, il cuore viene fuori tutto, tuttissimo. E... Questi sono i tuoi tre dischi, i tuoi tre riferimenti più che dischi, assolutamente. E sì. Marco invece? E Marco? Vai Marco. Io sono cresciuto più con il rock. Che bello il rock. Il rock fa bene la salute. Io mi porterei via Shine On Your Crazy Diamond dei Pink Floyd. Made in Japan, per forza. E poi un bel disco di Bill Evans. Anche lui. Anche lui, come già ne parlavamo, no? Lui ha proprio una scrittura, un lirismo... da brivido, è emozionante da paura. Sì, lui ti sistema la giornata, secondo me. E quindi è difficile scegliere. Ma sai, bisogna dare un limite, no? Bisogna darsi restringere un limite. Un po', quindi insomma. abbiamo capito insomma che sei sul dolce, sul melodico, invece lui è un po' più sul rock. Io sono un mix, cioè anche quando suono brani jazz o più ballate, la mia vena rock nel tocco, in qualcosa, nel senso ritmico esce sempre e uscirà sempre, credo. Beh, tu hai citato Made in Japan, un disco assolutamente l'apoteosi dei Deep Purple. Io Deep Purple amo particolarmente un disco che si chiama In Rock. Sì, beh, certo. Quello secondo me è meraviglioso. Sono i Deep Purple ancora non completamente abbastanza popolari. Sì, popolari, ma fino a un certo punto di vista. Poi chiaramente il successo è stato mondiale, e hanno sdoganato un po' tutto. Made in Japan è che ha questi minuti interminabili, esatto, di improvvisazione, che io in un'isola deserta me li ascolterei. Il disco Made in Japan è stato ristampato un sacco di volte, è stato ripreso un sacco di volte, è ritornato in classifica un sacco di volte, non muore mai come no, musica. Disco... E lì capisci il valore di quella musica. A proposito di questo, lo sai che domani Ian Pace, come sempre, viene a trovarsi, sì, e verrà qui nel Veneto assieme a Tolo Marton, farà un concerto. Ian Pace è un grandissimo batterista che va un sacco di giri qua nel Veneto, ma particolarmente questa terra. Sì, è vero, anch'io l'ho conosciuto perché era spesso da queste parti. Sì, sempre. Poi è una scuola, mi pare, qualcosa, fa delle lezioni. E Ian Pace, ragazzi, è un batterista. Invece un ricordo a John Lord che per me purtroppo è stato... se n'è andato un po' di tempo. Non tanto tempo. Grandissimo. Qualche mese fa. Sì, più o meno. Era un grandissimo della tastiera, un grandissimo. Perché anche lui aveva sdoganato in un certo senso la tastiera. Sì, ma poi la classica Mr. Rock, cioè la classica, c'è il famoso disco che ha fatto con l'orchestra sinfonica, ti ricordi? Io l'ho visto dal vivo, l'hai a visto Milano, dal vivo? Quando l'hanno rifatto con Steve Morse, che c'era già lui. Incredibile. Una cosa pazzesca. Quei musicisti là sono a certi livelli, non ne nascono più, c'è poco da fare. Irraggiungibili. Difficile. Invece è raggiungibilissima Elsa Martini. E ci fa cosa adesso? Adesso vi faccio questo pezzo d'Entry Four. Wow. Che è un brano sempre in friulano, una dedica a una grande passione che è la musica, qualcosa che pervade tutto, che sta fuori, dentro noi, che molto dà, ma molto, molto chiede in cambio. È un patto di sangue. D'Entry Four. Cercli dalis notis dentri le invenzion che si pan lucint dal nuie ven e pon dentri il cof de anime dentri che il co voi che il co crote che co soi musica che tu arcum me che avai con me, che aridi me, che non mi ascolte, musica che afferme i dis, che aponte i pits, che avegle i vips, musica che ferme i dis, che si alza in pits, domande ie, tutte chi viv, musica sempre su lor, che sponte il cur, sta dentro e fur, fur dal clostri te speraulis, fur di me di te, fur dal di sì, amor, o noi e sta con me, musiche che dolce li svenis, e sta dentro fur che smont dal berle, musiche che duar con me, che avai con me, che aridi me, che non mi ascolte, musica che a benedis, che a maledis, che spegle i vips, musica che ferme i dis, che si alza in piz, domande aie, tut che chi viv, musica sempre sulor, che sponte il cur, sta dentro e fu. Anime in piade, undi neif disfade, quar pintir calzeme venkin lune plene, armonie, calume malatie, catrime, libertà, distanze, libertà, distanze che che duar con me, che avai con me, che aridi in me, che non mi ascolte, musica che afferme i dis, che aponte i piz, che avegle i vips, musica che afferme i dis, che si alza in piz, domande aie, tut che chi vip, musica si impri sulor, che sponte il cur, starenti e pur, musica che duar con me, con me che ridi in me, che non mi ascolte, musica che a benedis, che a maledis, che a spagla i vips, musica che ferme i dis, che si alza in piz, domande aie, tut che chi vip, musica si impri sulor, che sponte il cur, sta dentro e fu. Insomma, sei stata dentro il cerchio delle note, insomma. Eh sì. Tu forse non hai visto Agostino, però io ho visto, ero qui vicino a un passo, c'era la Giulia che cantava il pezzo, perché probabilmente innanzitutto ha un ritornello incredibile questo pezzo, entra immediatamente il ritornello, e poi la velocità, l'accelerazione che ha dato Marco, ti faceva accelerare anche te, ma giustamente, perché accelerava in continuazione, poi si fermava, poi riaccelerava un'altra volta. È proprio un'improvvisazione, questa è proprio musica, è proprio l'essenza della musica. È viva. Non c'è, c'è musica dolce e delicata, ma veloce, percussiva, rombante. Sì, insomma, la bellezza, vabbè, anche dell'interplay musicale che ho con Marco, che conosco da moltissimi anni, suoniamo assieme da allora, da 7 anni ormai. E questo significa molto, perché... oramai basta un respiro per capirsi. Questo, qua avete improvvisato assolutamente, cioè il canone era quello, la struttura era quella, ma qua avete improvvisato decisamente, secondo me. Pensa che noi a farle sempre uguali, se no. Appunto, quello, il bello della diretta acustica in radio è questo, improvvisare. Certo. Cambiare e dare una sensazione diversa a chi ascolta, e anche la stessa Giulia, che era qui vicino a te, che cantava con voi al microfono. Lei si è allontanata dal microfono, però cantava, l'ho vista io, assolutamente. Carina. La senti proprio tua questa canzone? Questa è la prima che abbiamo scritto, proprio in friulano. L'hai anche estratta come singolo? La fai, nel senso buono della parola, passamela, nel senso che la stai facendo ascoltare parecchio in giro, anche come video... Sì, mi piace tantissimo. Sì, diciamo che è una tra le mie preferite, è una delle canzoni del cuore queste proprio, sì. Sì, e non mi stanco mai di cantarla. E quindi quando questo avviene è un segno assolutamente positivo, no? Non stancarsi. Certe altre magari qualche volta, no? Stancano. No, non stancano mai. No, non è che stancano, però magari cerchi di modificarle per fare sempre qualcosa di diverso. Dimmi. Invece questa c'è proprio una struttura anche, no? Che ti permette di giocare sul rallentamento, velocità, spazi, riempimenti. Perché certi artisti si stancano di interpretare, dico in questo senso, si stancano di interpretare certi pezzi che il pubblico desidera, perché sono stanchi, non vogliono più interpretare, però il pubblico continua ad esigere quel pezzo là. Abbiamo già citato altre volte De Gregori, che lì se non lo sanno non lo voglio più fare perché è stanco, sempre la stessa cosa. Però quella ha lanciato il personaggio, e quella, non dico che abbia lanciato te, però si ricordano spesso e volentieri, sì, di questo. È stata la prima è importante. Assolutamente, è quello, assolutamente. Rimane dentro, poi vengono tutte le altre, ma la prima sdogana, cioè apre un mondo, apre il tuo mondo, il tuo progetto. Dopo, se tu sei stanca di farla, non penso. No, non ma pare. No, assolutamente, ma infatti questo brano non mi stanca mai. Però dico che il rischio, no, di riproporre in genere dei brani può essere quello che magari qualcuno, ma noi stessi che li scriviamo, puoi, certo, confermarmelo, Giulia. Si può, cioè, ci sono dei brani del cuore, no? Qualcun altro ci piace magari un po' di meno. No, per me no. No, per me no, nel senso che ogni canzone mi ricorda qualcosa. Mm-hmm. Quindi può essere che magari dica, no, questa canzone mi ricorda quel periodo lì e adesso non ho voglia di ricordarmi quel periodo, no? Sì, può essere più legato a, questa, a questo fatto. A questo, no? Fatto, perché qualche volta capita che quando un artista fa un grande pezzo, conosciutissimo, diventa un peso enorme a questo artista, perché devo fare sempre questo pezzo qua? Infatti. E se lo cambio la gente no, non vuole, deve essere come era prima. Purtroppo il peso è anche quello, è la difficoltà, è anche questa, sapere gestire, sapere andare oltre, sapere allargarsi, però certe volte l'allargamento non è controproducente. Infatti, no, certi brani quando nascono così, così devono rimanere, no? Chiaro. Giulia, una domanda a te. Ok. Ma tanto so che sei sincera. Cosa pensi di Elsa? Beh, penso di averlo anche scritto, no? Bene. Penso che sia, cioè, che bisogna ascoltarla, stare in silenzio, ammirarla e rimanere incantati. È un incanto anche vederla cantare, non solo ascoltarla. Beh sì, certo. Che ma è un carina. Duetto, un duetto fra stato. Di voi, no? È possibile? Esatto. Potremmo, chi lo sa. Ce l'avete magari uno qui? 30 secondi, un minuto. Apposta, abbiamo fatto tutto apposta, abbiamo già tutto previsto. Beh, Giulia, canta uno dei tuoi che io ti vengo dietro. E che canto? Quello che vuoi. quello che vuoi, assolutamente quello che vuoi. Poi vai, abbiamo il maestro qua, il problema non sussiste. Chitarra. Esattamente. Dove la chitarra? La chitarra del maestro? Ma il maestro stesso può suonare la chitarra. Ecco, infatti, direi che potrebbe suonare. Sì, è tutta un'improvvisazione davvero. Il maestro stesso può suonare la chitarra e vi accompagna. L'accordo d'inizio, vai. Ok, vado. Dammi una tonalità, non so. Bella, potrebbe . Essere un bel punto di partenza. Facciamo e poi vivere? Ok. Però io la facevo più uno. Un semitono, col famoso capotasto, perché io non sono chitarrista, ma... quindi inizia in do, però ricordati che più uno. Ma è do o do diesis, quindi? No, sì, accordi. Io ti dico do facendo con la capotasto, okay. Dopo il maestro mi traduce. Do maggiore. Do diesis maggiore. Vabbè dai, un semitono su, un semitono giù. Okay. Che mai sarà? Improvvisiamo. Diamoci l'accordo e poi improvvisiamo, sì. Vai. Linfa che scivola via d'un fiore reciso che radici più non ha, cerca un appiglio per crescere, fosse solo un po', fosse solo un po' di più, fosse solo un po', fosse solo un po' di più dentro sé. L'ho presa anche troppo alta, non importa. A volte una siccità porta a chiudere gli occhi, a non guardare un po' più in là. ovunque c'è vita da cogliere, a lasciarsi un po', a lasciarsi un po' di più, a lasciarsi un po', a lasciarsi un po' di più scorrere come onda del mare che scende, che sale e poi vivere come acqua corrente che fresca discende e poi vivere come goccia di pioggia che guizza nell'aria e poi vivere come ghiaccio che al sole si scioglie, risplende e poi vivere di più, di più e poi vivere di più, di più, di più, di più, di più, di più. È live, assolutamente live. Contatto di percussione. Bellissimo, è stato bellissimo. Grazie, grazie. Ho preso una tonalità su di quella che va. Non ti preoccupare. Bravissimo. È un'idea per un prossimo disco, insomma. Assolutamente. Come lo fate in Triestino? Sai il Triestino? No. Anch'io. Va bene, facciamo ascoltare qualcosa dal disco, sì. Elsa, o vuoi suonare ancora dal vivo? Io una dal vivo la farei, però abbiamo stabilito essere la conclusione del programma. Vuoi fare un'altra dal vivo? Facciamo un'altra dal vivo? Sì, sì, poi, facciamo un'altra dal vivo. Allora, facciamo una dal vivo adesso, poi torniamo in studio e facciamo ascoltare un'altra dal disco e poi terminiamo. Perfetto. Cosa ci fai ascoltare dal vivo allora? Ma questa è quella finale fare? La finale... Facciamo dopo, alla fine di tutto. Di tutto, so. Quella si riserva a quel momento. Gyolding, gyolding, din, din, din. Allora, questo qua è una canzone, sempre nella tradizione. Gyolding, gyolding, vuol dire godiamo, godiamo. Sono le donne che cantano, no? Godiamo, godiamo finché possiamo. Che gli stenti... Senti che... Aspetta, perché la translation... Non è mica semplice. Gli stenti non mancano mai. E quindi se, aspetta che qua c'è l'erotismo, se alzerò il grembiule, dice la donna, qualcuno mi sposerà forse. La sapevano lunga le signore una volta. Gyoldin, gyoldin. Gyolding, gyolding, finché podin, gyolding, gyolding, finché podin, che stentano manche mai, che stentano manche mai. Gyolding, gyolding, finché podin, gyolding, gyolding, finché podin, che stentano manche mai, che stentano manche se il grimas, il grimas alzerà qualche dun, qualche dun, qualche dun mi maritarà, qualche dun mi maritarà. Gyolding, gyolding, finché podin, gyolding, gyolding, finché podin, che stentano manche mai, che stentano manche mai. Gyolding, gyolding, finché podin, gyolding, gyolding, finché podin, che stentano manche mai, che stentano manche mai. se il grimace alzerà qualche tu, qualche tu mi maritarà. Qualche tu mi maritarà. Yalla la la la la la di ho. Yalla la la la la la di ho. Yalla la la la la di ho. Si divertivano, assolutamente, si stanno divertendo. Per la prima volta Marco non è andato oltre, ha lasciato proprio la popolarità del pezzo. Stavolta ha variato poco e ha dato proprio il modo, il pezzo popolare, si è proprio sentito il pathos popolare e tu ti sei divertita, era una cantilena, una filastrocca. Sì, sì, sì, è una canzone proprio di gioia, un inno alla gioia, no? Esatto, e poi rimbalzava la tua cantilena con la sua chitarra. Fammi uno stop and go batteristico. Come Per quanto? Questo brano qua, l'originale, è quasi irriconoscibile. Sì, sono d'accordo. Perché abbiamo inserito una metrica completamente diversa e un'armonia. Però abbiamo voluto tenere assolutamente l'idea di festa. Esatto, però a me piaceva molto questo rimbalzo tra la tua voce. Fammi un'altra volta. Quale dici? È la finale, che tu ti fermavi e lei giocava con la voce. Proprio questo. Proprio questo, bellissimo. Complimenti vivissimi. Ma te li faccio fare anche da una tua carissima amica. Pronto? È pronto! E chi è? Ciao Befalacce! Hai capito chi è, Giulia? Sì. Senti! Chi fa più ultra suoni tra noi due? Beh, insomma, accidenti, sarebbe stato bello fare un trio. E la prossima volta. Ma sì, sì, la prossima volta sì, vengo con lo shaker io, ok? Va benissimo. Però la colpa è tua, però, che ti avevo invitato a venire qui questa sera. Ah, sì, sì, sì, certo. Oh, caspita, non volevo mica insieme. Ah, ecco, ecco. No, sono io che ho bellamente rifiutato. Brava, ma... Stavo scherzando, Serena, stavo scherzando, ci mancherebbe. Sì, sì. Qua ti salutano tutti, tanto li conosci tutti, quindi ti salutano tutti. Certo, certo, e anch'io saluto tutti, mando un bacione e, insomma, alla fine non ero lì, ma sono stata lì lo stesso perché ho ascoltato praticamente quasi tutta la trasmissione. Mi aveva salutato un'ora fa, devo andare, scappo, adesso sono ritornata, mi fa, sono ancora qui, richiamo, era troppo forte. Che forte, grazie Sere. Figurati, è un piacere. E un bacione a te e a tutti voi, anche a Giulia. Ciao. Saluta Andrea e amici. Sì, certo, certo, lui è andato momentaneamente di là, non sapeva che adesso ne avrebbe telefonato e quindi si è perso la mia telefonata in diretta. Volevo farti partecipe delle tue amiche, insomma, e con le tue amiche. Grazie, Sere. Ciao. Non volevo disturbare troppo, anche perché ti ho indotta a cantare Caldasera in Friulano. Ho pilotato la scaletta, diciamo. Ma qua mi sa che è stata tutta un po' stravolta rispetto all'inizio. Ma è sempre così. Ma è fantastico, è il bello della diretta. Diretta. Si suol dire, insomma. Bene, vi lascio ancora gli ultimi vostri momenti, che devo ascoltare ancora due brani, mi pare di aver capito, uno dal vivo e uno dal disco. Ormai sei stata attentissima. Brava tesoro. Salutaci tanto Andrea, Serena, grazie. D'accordo, ciao Agostino, ciao a tutti. Ciao. Contenta? Molto contenta. Ci siamo fatto sentire le tue amiche stasera. Ma che bello. Senti, una domanda te la devo fare. Però. Vai. Ti senti proprio una messaggera della musica? Beh, chi fa questo ha il compito, il dovere di sentirsi messaggero, guai se no, per chi lo fa? Te l'ho fatta questa domanda perché mi è piaciuta moltissimo la frase che hai scritto alla fine. Sì. Dici, grazie a chi ci ascolterà condividendo il nostro sentire. Ed infine grazie alla musica, grazie per averci scelto come tuoi messaggeri. La nostra promessa è di onorarti fino all'ultimo respiro. Eh sì. Sono parole bellissime. È il patto di sangue di cui parlavo prima, no? Ah, certo. La grande passione per la musica. Sì, è una passione per la vita. Senti, hai stravolto la scaletta o cosa devo farti ascoltare dal disco? Dimmi. Allora, una canzone frase che piace molto a te, no? Cioè? La numero 9. Bah, la neve. Sì. La dedica, te la dedico. Grazie, Agostino. Vedo che ti ricordi bene i miei gusti. Allora, Neve, da questo disco splendido di Elsa Martin. Si fermi di un giro e resti a guardare se è tardi per piano allontanarti o rincorrerti o scrivere lettere cariche di neve. Poi il bianco scandire sillabe il nome. Chissà quel che sarà il nostro paesaggio ora. Vuol bianco sfumare in intimi gesti, poi mani che si intrecciano piano piano in confidenze. Risponde al tempo che il giro si è chiuso e ora decidere spetta a me qual è il solo colore che si possa descrivere. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Dimmi quello che vuoi, Elsa, ma questa è una canzone che veramente mi piace moltissimo, fa venire la pelle d'oca quando la sento. È sempre stata con l'altro microfono, grazie. È sempre stata una delle mie preferite di questo disco. La prima canzone che poi ti ho detto subito anche. Sì, che mi infatti. Piace, è una, mi è piaciuta tantissimo, veramente. Ogni grazie. Tanto risentirla mi fa molto piacere, insomma. Grazie per la dedica comunque. Ci mancherebbe, cavoli. Senti, non abbiamo ancora detto dove si può trovare il disco. Allora, il disco è acquistabile sul mio sito internet elsamartin.it, quindi è presente su CD Baby, iTunes e Amazon. E per ultimo si ricorda. No, ciao. Ciao, lui il labiale non lo capisce, non quindi vabbè. Amazon, CD Baby, iTunes. Grossi problemi a scuola. Capire labiale. A capire suggerimenti. Vari. Si può trovare, quindi, accedendo al sito, lì poi... Se uno lo vuole fisicamente, vieni ai tuoi concerti. Esatto, poi nei concerti in primis, insomma. E quindi, i prossimi concerti? Allora, prossimi concerti in vista, ci abbiamo un tour, mini tour in Trentino Alto Adige, 5, 6, 7 settembre. Siamo ospiti del... saremo alla Grenz il 7 settembre, la sera del 7. Il 7 pomeridiano in un rifugio sulla bello, montagna, San Pellegrino. Passo San Pellegrino e il 5 siamo ospiti a Trento proprio, mentre la Grenze è a Moena. E il Folkest ci sei, no? No, quest'anno siamo stati un paio di anni fa, no? Mm-hmm. Abbiamo suonato per Folkest, poi saremo in duo, quindi con un progetto più jazzistico, il 1 settembre a, come si chiama il paese? Valleggio sul Mincio. Esatto. Garone. E lì, sì. Vicino alla Brigata. Per la festa Tortelline d'intorni, esatto, un festival. E dopo l'8 settembre al bellissimo castello di Colloredo di Montalbano. Ah, quello è bellissimo, favoloso quel castello. Ne hai un po' di date però, eh? Ah, insomma, quest'estate non possiamo lamentarci, no. È andata bene, no. È bene. Sì, cioè sì, ovviamente sì, uno è andata bene, da fare. È data da fare, hai trovato le date, cioè, non piovono dal cielo, no, almeno non ancora. Assolutamente no, non piove ancora, pioverà da domenica in poi, dicono. Senti Elsa, abbiamo scoperto che sei una persona simpaticissima, questo non sta a me a dirlo perché tanto non l'ho scoperto tutti, ma insomma consentimi di farti una domanda che intanto non la faccio così. Ma Elsa Martin, chi è Elsa Martin? Elsa Martin è una rompiscatole, canterina, esibizionista, istrionica. A me è sempre piaciuto stare al centro dell'attenzione. Simpatica. Sì? Perché guardi? No, perché... ha fatto un po' così. Distratta, disordinata. Mm-hmm. Insomma, un po' di difettucci. Ah. Curiosa. E non è mica un difetto? No, quello no. No, appunto. Quello no. Curiosa e ritengo buona. Una cosa bella me la dico, tiè. Va bene. Siamo arrivati alla fine, Maurizio. Che certo, dici? Abbiamo fatto queste due ore di cavalcata tra musica tradizionale e non. E non. E non, è giusto sottolineare e non. Quindi esatto. Essa non è soltanto musica tradizionale, è anche la sua musica. Ah, però io mi stavo dimenticando di una cosa, visto che c'è Giulia e anche Elsa qui, loro sono state artefici, si può dire così, di una grande cosa, secondo il mio punto di vista. Avete aderito ad una manifestazione svoltasi a Rolo. Qui è Giulia che è stata la madrina. Esatto. Della... E questo vi fa un grande onore, siete andati in un paese devastato dal terremoto e avete fatto questo concerto assieme a Rebi Rivale, assieme a Paolo Rossato, sì, poi chi a c'è? Simone Rizzi. Però l'artefice di tutto è Paolo Parmigiani, che qui che qua, è qui, con qua, te, qua, insomma, lui che deve essere ringraziato in primis. Beh, te lo facciamo ringraziare, ecco. Vieni qua Paolo, vieni a ringraziare. Sì, certo, colgo l'occasione per ringraziare Giulia, che è stata l'artefice appunto, è stata lei che appunto mi ha spinto anche a organizzare il tutto, e poi con la sua collaborazione e le sue conoscenze con Elsa, Paola, Rebi e Simone siamo riusciti a organizzare una bella cosa, un bel evento, quindi Grazie mille, grazie a lei e grazie a tutti. A te. Grazie. E a voi va dato onore, insomma, di aver aderito a questa manifestazione, insomma, che credo vi abbia dato molto dal punto di vista umano. Senz'altro. No? Assolutamente, assolutamente. Bene, allora, noi ci diamo appuntamento, almeno per quanto mi riguarda, con il nonnetto a lunedì prossimo, vero Maurizio? Sì, caro, caro nonnetto extra. Sì, lunedì abbiamo un cantautore di Verona. Cantautore, sì, cantautore di Verona. E poi tu sarai anche mercoledì, probabilmente. Sì, sì, probabilmente sì. Non vedi, giovedì sempre, stavolta. No, giovedì. Sempre qua. Sempre qua. Giovedì si parte per Capri. Esattamente, tu vai a Capri. Giovedì vado a farmi un bel giretto per questo premio che, anzi, ricordo, sarà il 31, la serata finale, appunto ad Anna Capri, con il premio Bruno Lauzi, insomma. Ed è bellissimo. Hai partecipato, no? Sì, no. Ma come si diceva prima. Vabbè, ho capito. Allora, con cosa ci saluti, Elsa? Allora. Con la novità, il cosiddetto ghost track, cioè praticamente il pezzo nascosto. Il pezzo fantasma. Pezzo fantasma. Sì, è un omaggio. Un omaggio a proposito a Bruno Lauzi. Esatto, che, meraviglioso. Che ha scritto questa canzone per suo figlio. Esatto. Ed è una dolcissima Nina Nanna. Che quando. Capita Fagiolo, anche abbiamo appena parlato del esatto. Premio. Esattamente. Non infatti io l'abbiamo arrangiata proprio per la partecipazione di un paio d'anni fa. Mm-hmm. Te la faccio mettere nel sito loro, vuoi? Ah, magari. Okay, dedicata a Bruno Lauzi, magari. Certo. Ecco. E niente, la proponiamo io e Marco. E con questa canzone vi salutiamo. I saluti li faccio dopo? No, li fai adesso. Ok, allora ringrazio Maurizio ed Agostino per averci ospitato in questo fantastico studio così ospitale e caloroso. Speriamo di replicare più avanti. Ringrazio Giulia che ha scritto una fantastica recensione, che sostiene questo tipo di lavoro e stima in maniera incondizionata, cosa che non è da poco tra colleghi. Ci tengo a sottolineare la generosità tra colleghi nell'ambito musicale, è cosa assai rara. Ti dirò che capita spessissimo invece in quelli che vengono qui a trovarci, che c'è questa collaborazione, poi soprattutto tra... E non c'è tantissima gelosia, forse ad alti livelli, quelli che arrivano, sei nato, allora si guardano magari... Purtroppo cioè, in questo settore c'è anche poca intelligenza, quindi non è necessario essere alti livelli, basta essere anche... Cioè sì. Anche nei bassi fondi cioè, si trova sempre il motivo per farsi le scarpe l'un l'altro. Ecco. E quindi trovare delle persone che invece supportino con generosità è un dono, una bella cosa. Va bene, grazie ad Elsa. E grazie a Marco Bianchi che mi supporta. Il maestro. Ma la supporti tanto, Marco, la supporti tanto? Oggi come non mai posso dire di sì. Sì. Va bene. Marco, grazie anche a te di essere venuto. No, grazie veramente, a voi, veramente. E di aver suonato con Elsa. È stato un piacere. Giulia, carissima, sai che... Io ti devo solo. Sono di casa, ma io, tu tra telefono, per presenza, insomma, sei una di noi, sei una di Radio Veneto. Io sai che ti voglio un bene dell'anima. Sì, grazie, reciproco. E grazie sempre per tutte queste dritte che ci dai. Insomma, tu sei una dritta sua, quindi insomma. Certo. Grazie a Simone Rizzo che è venuto a trovarci anche lui. A Paolo Parmigiani, a Gilles che è venuto a trovarci. Questa sera siamo tutti in amicizia. E grazie a Nonnetto che ovviamente è sempre con me. Grazie Maurizio. Grazie Agostino. Ci sentiamo la prossima settimana con i soliti nuovi progetti, perché la radio deve sempre show must go on. Assolutamente. Oh yeah. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti e grazie. Con l'ultima canzone di Elsa Martin. Della mamma e del papà, chi per primo chiude gli occhi questa notte sognerà di andar su per il camino ed in cielo volerà, e volando fra le stelle le più belle sceglierà, con le stelle dentro gli occhi domattina salzerà.